di Simone Spezia. La Grecia invia finalmente la lettera con il piano per l'estensione degli aiuti, revisione dell'IVA, lotta all'evasione, tagli di spesa anche su ministeri e consulenze. Scontro aperto nella Lega in Veneto, Zaia attacca Tosi, lui in campo sarebbe un'ipotesi abominevole. I magistrati non siano né burocrati né protagonisti, dice Mattarella in visita a Firenze. Il Presidente della Repubblica arriva in treno e prende il tram. DDL sulla concorrenza, sarebbe rispuntata la penale per chi cambia operatore telefonico che era stata cancellata nelle lenzuolate di Bersani. Il Ministero smentisce. Un caso strumentalizzato, dice, ma non posso coinvolgere la SIAE. Dopo l'indagine per l'evasione fiscale da 2 milioni, Gino Paoli si dimette dalla presidenza. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura come sempre, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook e poi il numero di SMS durante la diretta, il 349-238-6666. Prima di aprire e andare a parlare di Grecia, ci sono due notizie arrivate in questi minuti che vi dobbiamo dare, sono entrambe notizie che arrivano dall'estero. La prima dallo Yemen, dove una donna francese e la sua scorta yemenita sarebbero stati rapiti nella capitale Sana'a, è quello che riferisce Al Arabiya citando fonti della sicurezza. E la seconda arriva dalla Nigeria, dove nel nord-est almeno 18 persone sarebbero morte in seguito all'esplosione di una bomba su un autobus a Potiskum, questo il nome della città. Naturalmente, appena avremo aggiornamenti, ve li daremo. In apertura, dunque, parliamo di Grecia. È stata accolta con soddisfazione la lista di riforme che il governo greco ha presentato ai suoi creditori internazionali, condizioni per ottenere una proroga di 4 mesi del programma di aggiustamento economico in scadenza a fine mese. Parlando davanti al Parlamento europeo, il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, ha detto che l'esecutivo guidato da Alexis Tsipras è molto serio nella sua volontà di modernizzare l'economia greca. La lista di riforme, che comprende tra le altre cose misure contro l'evasione fiscale e la corruzione, sarà oggetto di discussioni tra i ministri delle finanze, che dovranno dare il loro benestare politico. Il negoziato non finisce qui, tuttavia. Entro aprile, governo greco e creditori europei dovranno dettagliare le riforme misura per misura. Da questa trattativa dipenderanno gli aiuti finanziari. La Grecia deve ancora incassare 7,2 miliardi di euro legati al programma di aggiustamento economico in scadenza a fine mese. Veda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Vi abbiamo dato in apertura due notizie che arrivano dall'estero, appunto il rapimento di una donna francese nello Yemen, una bomba esplosa in Nigeria. All'estero restiamo con le cronache che ci portano a parlare di Libia e di ISIS. Innanzitutto quello che è successo ieri nel nord-est della Siria, dove c'è stato un assalto in piena regola ad un intero villaggio preso in ostaggio dai combattenti del califfato. Il terrore sarebbe sceso alle prime ore del mattino sul villaggio nei pressi di Tel Tamer, non lontano da Al-Hasaka, dove c'è un'alta concentrazione di popolazione assiro-caldea siriaca e quindi cristiani. Avrebbero dato fuoco ad una chiesa e rapito decine di persone. Per quanto riguarda la Libia, invece, la situazione nel paese è ancora di sostanziale conflitto. Questa mattina ISIS ha inviato minacce ai due governi, quello riconosciuto internazionalmente di Tobruk e quello di Tripoli. Siete degli infedeli, hanno detto. Altre minacce, quelle all'Italia, restano in primo piano, mentre in Spagna è stata smantellata una rete di jihadisti. È firmato dalla Brigata Battar, la principale formazione dell'ISIS in Libia. Il messaggio di minaccia arrivato oggi ai due governi al potere nello Stato nordafricano, quello di Tobruk e quello di Tripoli. Siete infedeli, si legge nel proclama pubblicato da alcuni media libici, nel quale si mettono in guardia le milizie di Misurata dall'interferire con le operazioni dello Stato islamico. Per fronteggiare la minaccia jihadista in Europa intanto si moltiplicano le operazioni di polizia. In Spagna la Guardia Civile ha smantellato una rete che reclutava foreign fighters per il califfato, 4 le persone arrestate, mentre in Francia sono stati ritirati i passaporti a 6 cittadini francesi che secondo le autorità erano in procinto di partire per la Siria per unirsi all'ISIS. È la prima volta che questa misura introdotta a novembre viene applicata. Quanto all'Italia, dalla procura di Reggio Calabria arriva un allarme su possibili rischi di legami fra terroristi islamici e 'ndrangheta. Nel frattempo si indaga anche sulle nuove minacce al nostro paese rilanciate ieri da un'organizzazione americana che monitora le attività di propaganda sul web dei gruppi jihadisti. Il messaggio rilanciato su Twitter, nel quale viene evocato l'intervento di lupi solitari, sarebbe in realtà partito da un sito internet, forse registrato da un cittadino egiziano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è prevedibile che tutti questi temi, la Libia, il terrorismo internazionale, la Grecia, entrino nei colloqui che stanno avendo in questi minuti il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e quello francese, Hollande, a Parigi, dove si trova il corrispondente del Sole 24 Ore, Marco Mussanè. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Naturalmente immagino che ci siano anche questi temi, oltre che forse l'Ucraina, suppongo. Ma sicuramente i grandi temi internazionali saranno sul tavolo dell'incontro, del vertice tra il Premier Renzi e il Presidente Hollande. L'Ucraina sicuramente, la Grecia e chiaramente tutta l'area medio orientale, Libia in testa, compresi tutti i problemi legati alla gestione dei flussi di migrazione clandestina, all'eventuale rafforzamento dell'operazione Triton, su cui la Francia peraltro ha notoriamente una posizione di sostegno rispetto a quella italiana, che da tempo è di segnalazione dell'insufficienza dell'attuale sistema di controllo e di gestione dei flussi immigratori clandestini, anche se l'attenzione più concreta intorno al vertice riguarda i passi in avanti, finalmente speriamo definitivi, del collegamento ferroviario Lione-Torino. E quindi questo sarà l'aspetto più concreto. Sono in corso i colloqui, vedremo e vi aggiorneremo all'interno dei nostri giornali radio e dei nostri appuntamenti dell'informazione sugli esiti di questo incontro. Alle 3 del pomeriggio la conferenza stampa. Grazie a Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Siamo il giorno dopo la firma dell'accordo fra Italia e Svizzera. Vogliamo fare il punto, al di là delle dichiarazioni, su come tutto questo funzionerà, e siamo in linea con Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a te. Come funziona? Funziona che ieri si è chiusa una delle ultime porte per i capitali in fuga, anche se sicuramente la più importante, perché è quella della Svizzera. Da oggi l'Agenzia Fiscale Italiana tecnicamente può chiedere informazioni riguardanti singoli contribuenti o anche gruppi di contribuenti che siano in sospetto di evasione fiscale. Da oggi stesso, Alessandro, nonostante questa cosa debba essere sottoposta a un referendum da parte della Svizzera? Dovrà essere sottoposto a un referendum, ma che sicuramente passerà come tutti gli altri referendum, perché la Svizzera ha troppo da perdere dalla mancata collaborazione internazionale in materia fiscale, perché verrebbe radiata dalle piazze finanziarie internazionali, in primo luogo da Wall Street e in secondo luogo rimarrebbe sulle blacklist commerciali. Quindi la Svizzera, volente o nolente, non avrebbe mai ceduto questi atti, è stata costretta ieri a cedere il segreto bancario anche nei confronti dell'Italia. Alessandro, si chiude una porta, però in realtà ne restano aperte altre, perché si chiude, come dire, la porta svizzera e ci sono molti altri paradisi fiscali più esotici. È un problema reale questo, o secondo te la chiusura del capitolo svizzero porterà effettivamente a una restrizione dell'evasione fiscale? Ma diciamo che gli evasori incalliti adesso sono davvero di fronte a un bivio. Tutto il mondo dei paradisi fiscali affidabili, che sono la Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Singapore, hanno tutti già chiuso la porta o la stanno chiudendo, tutti per lo stesso motivo. Certo, si stanno aprendo altri paradisi fiscali, in Europa il più vicino è la Serbia, ma poi c'è il Nord Africa, ci sono i paesi dell'Oriente, della penisola arabica. Il problema è: questi sistemi paese danno un'affidabilità per poter occultare del nero fiscale, e quindi la partita da giocare è tutta qui. I paradisi fiscali che siamo abituati a conoscere, quelli che hanno tenuto il segreto e soprattutto hanno tenuto gestioni patrimoniali affidabili importanti, stanno sparendo e spariranno tutti. Rimarrà questo, diciamo, terzo mondo della finanza sul quale un contribuente che non vuole pagare le tasse in Italia deve scommettere, però con rischio di perdita secca, come succede nei casinò. Grazie ad Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore per la chiarezza, e poi trovate tutti gli approfondimenti anche sul Sole 24 Ore oggi in edicola. Siamo alla politica con lo scontro nella Lega in Veneto che ormai è aperto. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così. Allora Simone, sembra proprio una situazione paradossale. Dopo Tosi contro Zaia arriva Zaia contro Tosi e la guerra è sempre nella Lega in Veneto. Stamattina proprio ad intervenire è il governatore in carica. L'ipotesi che si possa candidare a guidare la regione Flavio Tosi è per Luca Zaia un'ipotesi che i veneti saprebbero valutare come assolutamente abominevole e che va al di là di ogni pessima aspettativa. Penso che il segretario della Lega Veneta sappia benissimo che non può candidarsi contro il suo candidato. Non è assolutamente una sfida precisa a Zaia, ma la volontà di pensare che al di là di questi discorsi c'è un popolo, quello dei veneti, che si meritano una buona amministrazione. Zaia è pronta ad incontrare tutti, anche Tosi. E la battaglia in realtà anche tra Matteo Salvini, il segretario della Lega, e lo stesso Tosi, che guarda ad un elettorato più moderato, magari anche con il nuovo centrodestra tanto avversato da Salvini. Sullo sfondo c'è anche la manifestazione della Lega sabato a Roma contro il governo Renzi, alla quale Salvini ha chiesto a Tosi di partecipare, ma il primo cittadino di Verona temporeggia e dice che andrà a Roma solo se non avrà impegni da sindaco. A te Simone. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Veniamo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi è in visita a Firenze. Ha parlato tra l'altro di giustizia. Alessandra Schepisi. Sì, è così, equità, imparzialità, tempestività, questi principi ai quali deve tendere un sistema giudiziario realmente efficace, secondo il Presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha parlato alla Scuola Superiore della Magistratura di Castelpulci a Scandicci, vicino Firenze, per inaugurare i corsi di formazione del 2015. Il Capo dello Stato ha confermato la linea di sobrietà già inaugurata circa 10 giorni fa, quando aveva utilizzato un volo di linea all'Italia per raggiungere Palermo. Ebbene, oggi ha scelto la formula treno più tram, 2 mezzi pubblici sui quali ha viaggiato quasi come un comune passeggero insieme al ministro della giustizia Orlando e a tutto il suo staff, il Frecciargento Roma-Firenze e poi il tram dalla stazione di Santa Maria Novella fino a Scandicci. Tornando ai contenuti del suo discorso, Mattarella ha sottolineato come nel paese ci sia un forte bisogno di legalità e poi ha rivolto un monito ai magistrati: non siano né protagonisti né burocrati. Ma sentiamo un passaggio del suo discorso e poi la linea può tornare allo studio. Un compito né di protagonista assoluto del processo né di burocratico amministratore di giustizia. Si tratta di due atteggiamenti che snaturano la fisionomia della funzione esercitata. Vale sempre il monito di Piero Calamandrei: il pericolo maggiore che in una democrazia minaccia i giudici è quello della assuefazione, dell'indifferenza burocratica, dell'irresponsabilità anonima. L'ordinamento della Repubblica esige che il magistrato sappia coniugare equità e imparzialità, fornendo una risposta di giustizia tempestiva per essere efficace. Così dunque il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cronaca ci racconta di un blitz della Guardia di Finanza questa mattina in un ASL di Torino, la ASL 1. Filomena Greco, che cosa ne sappiamo? Buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Così questa mattina la Procura di Torino ha confermato effettivamente l'arresto di 6 persone e i domiciliari per altre 3. L'inchiesta da cui è scaturita questa iniziativa del giudice per le indagini preliminari, fa sapere la Procura, riguarda proprio i meccanismi messi in campo per truccare gli appalti pubblici grazie a un sistema solito, tra virgolette, di amicizie e di scambi di favori fra i dirigenti del settore sanitario, alcuni dirigenti del settore sanitario locale e responsabili delle aziende coinvolte in questa inchiesta. 6 delle persone raggiunte da un provvedimento di misura cautelare, infatti in carcere oppure agli arresti domiciliari, sono responsabili legali o titolari di società ritenute colpevoli proprio di turbare le gare a cui partecipavano. I reati ipotizzati dalla procura guidata da Armando Spataro sono quelli di associazione a delinquere, quindi un reato molto grave finalizzato a commettere delitti di corruzione, turbativa d'asta, falso ideologico in atti pubblici, frode e così via. Insomma, al centro delle indagini, fanno sapere i magistrati, almeno da indagini che sono durate almeno 2 anni, c'è proprio l'ASL Torino 1 della città di Torino, e tra gli arrestati c'è il direttore di una delle principali strutture complesse di questo ufficio sanitario. Ed è tutto. Grazie Filomena Greco per questi aggiornamenti. Gino Paoli si è dimesso da presidente della SIAE. Rassegno al presente consiglio le mie dimissioni irrevocabili, con la certezza che la SIAE saprà continuare la sua missione di tutela della creatività italiana. Ha preso carta e penna Gino Paoli e ha formalizzato con una lettera al consiglio di gestione le sue dimissioni dalla presidenza, una decisione presa dopo le accuse a suo carico di evasione fiscale, di aver portato in Svizzera illegalmente 2 milioni di euro. Paoli spiega di non voler coinvolgere la SIAE in vicende che devono restare estranee alla società e si dice certo di non aver commesso reati, con il rispetto assoluto di chi sta doverosamente svolgendo il suo lavoro di indagine, scrive ancora: intendo difendere la mia dignità di persona per bene. Intanto il suo avvocato Andrea Vernazza sostiene che Paoli voleva rimettersi in regola, voleva far rientrare il denaro depositato in Svizzera e per questo si era rivolto al commercialista. Il 2 marzo il cantante genovese sarà interrogato dai magistrati. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Da Gino Paoli a Jovanotti, che oggi presenta il nuovo disco. Marta Cagnola sta seguendo la presentazione. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno. Simone è entrato in motorino alla presentazione del suo disco e questo condensa lo spirito di questo Lorenzo 2015 CC, il primo album di Jovanotti dopo 4 anni. Attesissimo, tanti giornalisti, ma la presentazione è un vero evento perché l'ha trasmessa in diretta anche la sua Giova TV. Ha parlato ininterrottamente per 50 minuti Jovanotti, mostrando fotografie, video, ma soprattutto infografiche, slide come Renzi, qualcuno gli ha fatto notare, ma lui dice: l'ho fatto prima io. Si è inventato il grafico dell'umore della sua vita e poi ancora l'infografica degli ingredienti del disco, il grafico torta delle componenti in uno spettacolo di immagini e parole. Cosa c'è nell'album? 30 canzoni, tantissime, sì, ma come dice Lorenzo, la forma chiusa del disco è quella del passato, la forma non è più rotonda ma reticolare, anzi spiega a forma di gioco della campana. Infine, Lorenzo annuncia: ho scoperto dov'è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo è a Ceppagna, provincia di Isernia, e poi scopriremo anche perché. A presto. Grazie Marta Cagnola. Adesso tutti a Ceppagna, provincia di Isernia. Nel frattempo noi ci fermiamo, poi ci ritroviamo tra poco. Parleremo, tra le altre cose, dei rischi per la trasferta dei tifosi romanisti a Rotterdam dopo quello che è successo la settimana scorsa a Roma, e dei rischi invece per la partita che ci sarà tra il Tottenham e la Fiorentina dopo domani sera. Continueremo a parlare di calcio, sentiremo il sindaco di Parma Pizzarotti per capire lo stato dell'arte di una squadra che rischia il fallimento. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. La Grecia invia la lettera con il piano per l'estensione degli aiuti, revisione dell'IVA, lotta all'evasione, tagli di spesa anche su ministeri e consulenze. Scontro nella Lega in Veneto, Zaia attacca Tosi, lui in campo sarebbe un'ipotesi abominevole. I magistrati non siano né burocrati né protagonisti, dice Mattarella in visita a Firenze. Il Presidente della Repubblica arriva in treno e prende il tram. Un caso strumentalizzato, ma non posso coinvolgere la SIAE. Dopo l'indagine per l'evasione fiscale, Gino Paoli si dimette dalla presidenza. Roberto Massucci è il vicepresidente operativo dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Ministero dell'Interno. Massucci, benvenuto e buongiorno. Buongiorno a voi. Ci sono due questioni sulle quali vorremmo avere delle risposte, capire un attimo da lei come ci stiamo muovendo, e sono: la prima è, riguardano tutte la giornata di giovedì, la prima è Fiorentina-Tottenham, e quindi con il rischio che i tifosi del Tottenham, come dire, diano luogo a qualche intemperanza, per così dire, così come c'è il rischio che qualche intemperanza ci sia da parte dei tifosi della Roma che vanno a Rotterdam nell'incontro contro il Feyenoord. Partirei da Firenze, come ci si sta muovendo, Massucci? A Firenze è stato messo a punto un piano molto articolato per accogliere, e sottolineo accogliere, i tifosi del Tottenham che giungeranno in maniera molto numerosa per questa partita che è sentita da loro. Devo dire a onor del vero che i tifosi del Tottenham, nelle nostre analisi, che tengono conto anche delle esperienze precedenti di altri paesi europei nell'ambito della competizione, non hanno dato adito a particolari intemperanze, per cui la riteniamo una tifoseria non particolarmente a rischio. E pertanto ci si sta muovendo su un piano di accoglienza e inclusione nella città di Firenze, perché l'evento si svolge. Perché lei avrà letto che il sindaco era un po' preoccupato, no, Massucci? Sì, la preoccupazione dopo quello che è successo a Roma è doverosa e lo è anche da parte nostra. Poi la nostra preoccupazione si traduce in un impiego significativo di uomini proprio per garantire la sicurezza di tutti e tutelare ovviamente la città. Quanti uomini saranno schierati? Beh, parliamo di numeri consistenti che adesso non sto a precisare, però sono numeri importanti, molto importanti, in un piano operativo che il questore di Firenze ha messo a punto insieme con le altre autorità cittadine. Questo per quanto riguarda Fiorentina Tottenham, quindi non, di base non vi attendete incidenti o violenze particolari? No, nella classificazione internazionale di questa partita si è condiviso con gli amici inglesi che non si tratta di una partita ad elevato livello di rischio, anche se è una gara che chiaramente richiede grande attenzione. Per quanto riguarda invece la trasferta dei tifosi romanisti a Rotterdam, io so che c'è anche uno scambio di informazioni, come è naturale che sia, con la polizia olandese. Avete avuto segnali che ci possano essere, per così dire, ritorsioni da parte dei tifosi della Roma? La polizia olandese, nei rapporti che ci sta inviando ora dopo ora, si dice molto preoccupata per questa partita e in effetti ci sono le condizioni per esserlo. Noi contiamo che questa preoccupazione si traduca in una grande attenzione del sistema Rotterdam nell'inserire la tifoseria romanista, che anche in questo caso arriverà in Olanda in maniera molto numerosa, parliamo di circa 2700 tifosi nel complesso, si è strutturato un meccanismo di arrivo allo stadio che eviti i possibili contatti con la tifoseria del Feyenoord, che come abbiamo visto presenta, contrariamente a quella del Tottenham, connotazioni di grande criticità e di potenziale rischio. Voi li state supportando, immagino, la polizia olandese? Ci saranno anche i nostri uomini sul posto o no? Noi li stiamo supportando sotto due livelli, da un punto di vista informativo, tenendoli al corrente ora dopo ora dello sviluppo delle informazioni che riceviamo sia dai nostri organismi territoriali che dalla Roma Calcio, che sta molto bene collaborando con noi da questo punto di vista, e sia dal punto di vista operativo con l'invio sul posto, con l'invio a Rotterdam di una delegazione di 5 poliziotti italiani che sono specialisti del controllo delle tifoserie, che insieme con gli specialisti olandesi lavoreranno sul campo per evitare che avvenga questo contatto che potrebbe essere indubbiamente la scintilla, la causa scatenante di problemi che tutti quanti ci auguriamo siano evitati. La ringrazio, grazie Roberto Massucci, vicepresidente operativo dell'Osservatorio Manifestazioni Sportive, per essere stato con noi del Ministero dell'Interno, e speriamo naturalmente venerdì di non dover raccontare di nuove violenze. Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno. Fallisce questa squadra o no? Vediamo di evitarlo soprattutto, cioè, insomma, vediamo di evitare non tanto lo strumento tecnico del fallimento, che da un certo punto di vista potrebbe dare anche delle garanzie di, come dire, di contabilità per il futuro, ma quello che va evitato è il fatto che si perda la storia della squadra della nostra città, ecco. Per questo intendo come fallimento meglio di no, meglio di no. Avere una continuità, arrivare a fine campionato e poter insomma continuare a esistere. Abbiamo in studio con noi anche il nostro Dario Ceccarelli, che in questi giorni sta seguendo la vicenda. Il punto di oggi, Dario, che cosa ci dice? Ma ci sono vari problemi. Uno è la situazione economica, perché qui ci sono tantissime chiacchiere, ma soldi pochi. Ecco, una domanda che faccio è: se Manenti, il presidente, non porta i libri in tribunale per il fallimento pilotato, e lui ha detto che non lo vuole fare, bisognerà attendere il 19 marzo per l'udienza di fallimento avanzata alla procura. Ecco, ma da qui al 19 marzo ci sono 3 partite del Parma, 2 in trasferta e una in casa. Se pensiamo che l'ultima partita, quella contro l'Udinese in casa, non è stata giocata perché non c'erano i soldi per pagare l'energia elettrica, dove trova i soldi il Parma per andare avanti? E anche questo che lei chiederà a Manenti domani, immagino. Lo incontra domani, sindaco? Lo incontro domani a Collecchio alle 14.30, chiederò questo, ma soprattutto se non ci sarà una risposta su questo, è che almeno si metta in contatto con, come dire, con la Lega Calcio, perché di fatto la Lega Calcio si è resa disponibile a trovare delle risorse, poi capiremo quanto nel futuro, perché penso ci stiano lavorando per concludere il campionato e quindi per cercare di non creare più problemi anche dal punto di vista sportivo, di svolgimento delle manifestazioni o quant'altro, e quindi anche proprio per trovare i soldi dallo Stuart al Pullman, per capirci. Però ovvio che ci deve essere una disponibilità della proprietà della squadra nel chiedere questi conti, chiedere un aiuto, cioè sbloccare la situazione, cioè continuare solo a promettere che arrivano i soldi senza aver visto mai niente, ovvio che mette in difficoltà tutti, perché insomma, essendo una società privata, non è che uno può regalare dei soldi o dire il pullman lo organizzo io da ente esterno. Ci deve essere una disponibilità di dialogo, e questo è l'assurdo, il fatto che non ci sia. Senta sindaco, lei ovviamente frequenta la città perché è il suo mestiere, c'è qualcuno a Parma disposto eventualmente a mettere i soldi, secondo lei? Allora, penso che adesso sia prematuro, perché non c'è chiarezza sui numeri, quindi chiunque voglia poi eventualmente affacciarsi al tema della proprietà, adesso che si parla specialmente sui giornali, che poi ovvio prendono i numeri che trovano dai 50 ai 100, cioè ai 180 milioni di euro, ovvio che non penso che nessuno ci si avvicinerebbe. Quindi adesso un intento che ci siamo dati ieri con Lega Calcio, con la situazione calciatore, è proprio quella di capire economicamente in modo puntuale, magari anche con delle rinunce parziali magari da alcuni degli attori in gioco, perché la cifra può cambiare molto a seconda di quello che sono le negoziazioni che si possono fare, capire quanto serve ad andare da qui a fine campionato e l'esatta insomma quantificazione dei crediti sportivi, che sono quelli che dovrebbe accollarsi chi poi o attraverso un'asta o in modo diretto volesse acquistare la squadra. Senta, è ancora difficile trovare delle cifre. Senta sindaco, dice, ce lo chiede un ascoltatore via SMS, sì. Soldi del comune non avete intenzione di metterli, anche perché la condizione finanziaria del comune, diciamo, non è esattamente rosea. No, ma allora il comune giustamente si è fatto parte proattiva, anche perché prima di tutto vanta dei crediti lui stesso, quindi difficile che se ne metta, perché di fatto ne sta già aspettando, ma soprattutto come titolare dello stadio e del nome di una città, quindi non c'è l'opzione che il comune possa subentrare, non ritengo neanche che sia corretto, perché società sportive come queste, che in cui girano milioni di euro, in un momento in cui i comuni fanno fatica ad garantire i servizi essenziali, sarebbe anche un messaggio assolutamente negativo dal mio punto di vista, quindi non c'è questo rischio. Dario. Ecco, mi scusi sindaco, è una domanda che si fanno molti cittadini magari meno interessati al calcio. È un periodo di austerità, di rigore, tagliare eccetera eccetera, voi lo sapete meglio di me. Ecco, ma non è che forse col calcio bisogna sempre usare due pesi due misure? Non è che forse quando una società è arrivata al punto morto, forse è anche giusto che non sempre bisogna trovare dei soldi, metterci delle pezze continuamente? Perché alla fine poi questo porta anche a tutti questi dissesti nel mondo del calcio e dell'economia del calcio. Allora, io da una parte penso che vada rivisto, e lo dico anche da non tifoso, perché poi adesso mi occupo di questa faccenda, ma non ho mai fatto mistero che non sono un appassionato sportivo di calcio, quindi mi avvicino per motivi di necessità societarie e di dignità della città soprattutto. Però era sicuramente va fatta una critica nell'ambito del mondo del calcio. Le cifre penso che siano da anni sotto gli occhi di tutte esagerate rispetto al mondo, rispetto tante volte anche all'età dei giocatori, e rispetto poi a quello che è il risultato finale, al di là di servizi io penso molto più importanti per la collettività. Il fatto che una persona, in questo caso come Manenti, possa acquisire una squadra senza avere subito pronte delle garanzie economiche, sapendo che ci sono delle necessità, penso che sia un problema di regole da parte della FIGC e della Lega Calcio, quindi nessuno vuole nascondere che questo sia una problema, però adesso intanto affrontiamolo per il bene più che, come dire, anche dell'immagine della città e del fatto che sarebbe un fatto più unico che raro questo tipo di non concludere il campionato, fallire durante il campionato, però ovvio che ci deve essere una critica del sistema dove girano troppi soldi e troppi interessi. Grazie Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, e grazie al nostro Dario Ceccarelli. E non vi preoccupate che su questa vicenda ci torneremo, ci fermiamo per una pausa. C'è la borsa e poi dopo ci occuperemo di questa norma che sarebbe entrata nel DDL concorrenze, che riguarda il passaggio da un operatore telefonico all'altro e che di fatto prevederebbe una penale. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Revisione dell'IVA, lotta all'evasione, tagli di spesa anche su ministeri e consulenze. Ecco il piano Greco per l'estensione degli aiuti. Nel pomeriggio una serie di riunioni per valutarlo a Bruxelles. È scontro aperto nella Lega in Veneto, Zaia attacca Tosi, lui in campo sarebbe un'ipotesi abominevole. Io parlo di programmi, dice, altri di listini. Mattarella in visita a Firenze, i magistrati non siano né burocrati né protagonisti, dice il Presidente della Repubblica, arriva in treno e prende il tram. Genopali si è dimesso dalla presidenza della SIAE dopo l'indagine per evasione fiscale. La borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta Borse in diretta. Guadagna lo 0,26% il FTSE MIB, lo 0,23% il FTSE OSHER. Parigi cede poco, è quasi in parità, lo 0,03%. Francoforte in perfetta parità, Londra guadagna lo 0,17%. Ma mi sembra che i movimenti più grandi oggi, Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, siano stati sui titoli di Stato e sulla scorta del piano di Atene, no? Esatto, infatti lo spread si sta dirigendo verso quota 100 e inoltre anche le aste dei CTZ e dei BTP quindicennale sono andate bene. Ovviamente c'è un po' di rasserenamento, ma come dimostrano le borse il nervosismo regna ancora sovrano. Del resto Piazza Affari ad esempio poco fa perdeva lo 0,3%, ora sale di oltre lo 0,2%, si attende il verdetto anche dei ministri delle finanze sulle misure presentate da Tsipras. Alle 2 ci sarà una teleconferenza e quindi gli investitori preferiscono intanto sposare un atteggiamento cauto. Questo nel frattempo, mentre World Duty Free guadagna il 4,7%, Jux il 2,5%, Enel l'1,92%, Enel Green Power l'1,85%, in fondo all'Isino Finmeccanica che cede il 2,64%, nel giorno dell'annuncio della vendita di Taci, di Ansaldo STS e di Ansaldo Breda, operazione della quale parleremo tra un attimo. Intanto grazie Eleonora, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. A proposito della vicenda del Parma, ci fa notare un ascoltatore, Paolo, che ci scrive da Perugia, parla appunto del Perugia, dice: a noi ci hanno fatto fallire due volte, è uno schifo. Ovvio Paolo che la sorte del Parma in realtà non è ancora decisa. Marco Pierani, responsabile relazioni istituzionali di Altro Consumo, buongiorno. Buongiorno a voi. Che cos'è questa storia della penale per il cambio di operatore telefonico che avete scovato nel DDL concorrenza? In realtà il Ministero dice che non c'è questa penale, come funziona? Vabbè, vuol dire che cambierà il testo. Funziona che da quando c'è stato il decreto Bersani, sostanzialmente nell'ambito della telefonia in generale, delle comunicazioni, quindi anche i servizi pay TV, sono state abolite le penali. Sostanzialmente chi fa un contratto può dire senza dover essere costretto a pagare una penale. L'unico elemento che rimaneva, quindi che rimane nella legge vigente, era la possibilità per gli operatori di recuperare sostanzialmente i costi vivi dello switching, quindi per far passare un utente da un operatore all'altro o di recesso. Tutta la polemica che c'è stata negli ultimi anni era andare a verificare quanto impattassero questi costi e quindi c'è stata anche tutta una nostra attività di denuncia nei confronti delle autorità. La modifica nel testo di questo disegno di legge, noi ci aspettavamo un passo in avanti, cioè che fosse il governo andasse a dare un limite a quei costi vivi, visto che gli operatori l'avevano pompati. Invece fa l'esatto contrario, cioè due salti indietro, salti mortali all'indietro direi, reintroducendo le penali. E quindi cosa cambia? Che sostanzialmente quella parte che era il mancato guadagno commerciale, cioè se io faccio una promozione ad esempio sì. e faccio un contratto e spero che il consumatore aderisca per 2 anni, poi quello mi va via dopo 3 mesi, dal punto di vista commerciale io come azienda probabilmente ho sbagliato il prodotto o la comunicazione, in ogni caso ci ho perso, ma sì. la legislazione vigente non permette a me operatore di recuperare quel mancato guadagno commerciale. Se si reintroduce la penale, ovviamente si blinda il mercato da una parte e quindi si fa male anche all'efficienza del mercato, e dall'altra si fa sicuramente male al consumatore. Quindi sì. Non vedo nessuna. E qua il Ministero dice: la norma non cambia le disposizioni generali in materia di recesso anticipato, ma disciplina i costi di uscita dalle promozioni relativi ai medesimi servizi, come l'uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite, dice così il Ministero. Io non la vedo alla stessa maniera, l'abbiamo analizzata. Se poi questo significa che grazie al fatto che noi abbiamo sollevato il problema il governo presenterà un emendamento, noi accogliamo favorevolmente, visto che il testo attuale invece introduce questa problematica. Però sarei pronto a confrontarmi sul testo, insomma è evidente a tutti gli esperti del settore che qui si reintroducono le penali. Grazie a Marco Pierani, responsabile delle relazioni istituzionali di Altro Consumo, per essere stato con noi. Le auguro buona giornata. Come si diceva poco fa nell'appuntamento di Borsa, ci occupiamo adesso dell'operazione era atteso per oggi, l'annuncio di Finmeccanica sulla vendita di Ansaldo STS. Passa sotto le insegne del Sollevante il Frecciarossa 1000 da quasi 400 km all'ora. Si è concretizzata infatti stamane la lunga trattativa con cui Finmeccanica ha ceduto ai giapponesi di Hitachi Ansaldo Breda, che insieme a Bombardier produce il nuovo treno ad altissima velocità delle ferrovie, e Ansaldo STS, gioiellino tecnologico del segnalamento ferroviario. Un affare da oltre 1,8 miliardi, in seguito al quale il gruppo guidato da Mauro Moretti potrà concentrare le sue risorse solo sull'aerospazio e difesa, dopo aver per tanti anni dovuto fare i conti con le perdite di Breda. Per l'industria ferroviaria italiana invece si aprono le porte di un gruppo dalle spalle molto larghe come Hitachi, forte dei suoi 72 miliardi di fatturato e dei suoi 325.000 dipendenti operanti in tutto il mondo. Allo stesso tempo però non ci sarà più la proprietà nazionale pubblica a tutelare il settore e i suoi dipendenti, cosa che già in passato ha messo non poco in allarme il mondo politico e sindacale, che ha a lungo contrastato la cessione. Il numero uno di Hitachi ha assicurato che impianti e occupazione saranno mantenuti, ma il leader della Will Barbagallo è critico e parla di vendita dei gioielli di famiglia. Massimiliano Zampini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nel novembre scorso, per la prima volta, una ragazza di 21 anni che ha chiesto di restare anonima ha ottenuto dal Tribunale di Messina il cambio di sesso legale senza dover fare l'intervento, cosa in realtà la legge prevede, cioè una legge dell'82 dice che si può cambiare sesso solo con un'operazione chirurgica. Dunque il Tribunale di Messina ha riconosciuto che esiste un diritto ad una diversa identità di genere. Adriana Fracchi ha intervistato la presidente del Movimento Identità Transessuale, Porpora Marcasciano. Questo ci ha spinto ad avviare questa battaglia, anzi questa campagna che si chiama Un altro genere possibile, avviata proprio da noi del MIT, per permettere alle persone transessuali in Italia, che oggi sono circa 50.000, quindi non parliamo di una minoranza sparuta, ma di molte persone, di poter avere un nome più adeguato, più simile, più vicino alla propria identità e al proprio aspetto, perché questo compromette alle persone tantissime cose, in primis l'accesso al lavoro, l'accesso ai servizi, il voto diviso in uomini e donne, questo crea imbarazzo, molte persone trans non vanno a votare. Potrei citare tantissimi esempi che rendono difficoltosa, se non impossibile, la vita di una persona transessuale che chiede semplicemente di accedere a quelli che sono i diritti più elementari, in primis, lo ripeto e lo sottolineo perché è il più urgente,